Cali, Calico. Tu venite insieme a me, Cali, Cali, Calico. Vuol dire felicità, Cali, Cali, Calico. Che splendida città. A Cali, Calico, a Cali, Calico. Il danaro è proibito. A Cali, Calico, a Cali, Calico. Andata per vincere, Cali, Cali, Calico. Adamo visitò, Cali, Cali, Calico. Ed Eva conquistò. Le donne sì sono tutte molto belle, le puoi baciar sia col sole con le stelle, le puoi sposar 10, 20, 100, 1000, che cosa vuoi di più? A Cali Calico, a Cali Calico, c'è il destino sorprendente, a Cali Calico, a Cali Calico, non fa dire la verità, Cali Cali Calico, che splendida città, Cali Cali Calico, vuol dire felicità. A Calico, di forse noi,